avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant. Questa mattina faccio una trasmissione ruffiana che piacerà tantissimo ai nostalgici del bel tempo in cui eravamo tutti buoni. Perché eravamo tutti buoni? Perché c'era una buona televisione e quindi, essendoci una buona televisione, di conseguenza l'umanità era buona. Oggi siamo tutti cattivi perché c'è una cattiva televisione. Questa è un'equazione che comunque soddisferà molte persone, diranno: ah, finalmente, questa mattina l'ha capita anche Melog. Qual è la vera radice di ogni nequizia? È il fatto che ci sia una pessima televisione, diseducativa. Ah, riformando la televisione si riformerebbe l'umanità. Bene. Adesso allora vi diamo un tuffo di nostalgia, un momento di gioia, un fremito di immersione nei tempi felici in cui eravamo tutti buoni e vi comincio a fare qualche nome. Vi ricordate la bella televisione dei tempi di Ugo Pagliai, di Carla Gravina, in cui Albertazzi faceva il dottor Jekyll, in cui sentivamo la musica della Freccia Nera e rimanevamo esaltati con una Loretta Goggi travestita da ragazzino che ci sembrava chissà cosa, una cosa fantastica. Ricordate Dove Anna? Ricordate Il segno del comando, quella strana musichetta, una sorta di anticipazione di Dan Brown. Dan Brown nasce nella televisione italiana con Il segno del comando, una storia mista di alchimia, di mistero, di Roma sotterranea, con Carla Gravina bellissima, eterea. Allora la vedevamo in bianco e nero, quindi non vedevamo nemmeno le sfumature cromatiche tendenti al preraffaellismo. Bella questa figura di Carla Gravina. Beh, sentite, già da come ne parlo capisco un momento di idillio in cui le famiglie erano tutte unite, erano tutte abbracciate davanti al televisore, in cui probabilmente ancora non c'era nemmeno il telecomando. Ogni tanto uno si alzava e fa: cambia canale! E in quel momento c'era uno spartiacque, improvvisamente dal primo canale si andava al secondo canale, che era una delle più vertiginose alternative alla routine coniugale che era permessa in quei tempi. Beh, ricordate quella televisione? Cosa ricordate di quella televisione? Quali sono i momenti topici in cui eravamo tutti buoni? Ci ricordiamo che la televisione ci illuminava, la televisione ci apriva la strada verso l'assoluto. Oggi parliamo dei vecchi, antichi sceneggiati che tanto facevano bene alla nostra salute e alla nostra anima. 800 24 00 24. Come mi immaginava prima di conoscervi? Esattamente com'è. Possibile. C'è sempre uno scarto tra immaginazione e realtà. A meno di non essere veggenti. Attento, dicono che io sia una strega. Molto dolce, direi. E molto bella. E Tagliaferri è proprio deciso a farci aspettare. Verrà, verrà. Sarà qui da un momento all'altro. Eccolo. No, non è lui. Din don, amore. Cento campane stanno a di te no. Ma tu, amore mio. Brutta cosa la degenerazione, la senescenza, l'orribile vecchiezza. Perché adesso mi viene da ridere? Perché provo orrore? Perché provo brividi, raccapriccio, rastrellamento gonadico a sentire che c'era Lando Fiorini che cantava questa canzone che allora mi sembrava l'apoteosi del mistero. Stavamo lì a guardare, poi erano cinque puntate che sembra che riempirono una fase lunghissima della nostra vita. La prima volta che venni a Roma ragazzino mi feci portare a Trastevere a vedere questa fantastica piazza dove si aggirava il fantasma di Carla Gravina. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Deviato questa mattina, ma non deviato, in quanto poi daremo una giustificazione, dal cinema allo sceneggiato televisivo, che era, secondo me, in quei tempi la prima alternativa all'uscita al cinema. Ancora non esistevano le fiction, i serial, i talk show, i reality show, non esisteva la televisione invasiva, ma c'era questo momento familiare fantastico del cinema puntate in televisione. Era pura lisergia nazionale popolare, c'era il ceruleo compassato Ugo Pagliai, studioso byroniano, quindi davanti alle orecchie felpate vergini, davanti alle corne vergini di un'Italia ancora in fase di faticosa alfabetizzazione, si parlava di grandi poeti, si intrecciavano codicilli, Da Vinci, Antelittera. Penso che oggi proponessi a un produttore televisivo, faccio uno sceneggiato di cui il protagonista è un esegeta di Byron, ti sparerebbero a lupara in faccia, dice Belen, dove la mettiamo? Certo, c'è la dissertazione appunto sulla poesia, ma l'arte era qualcosa di benefico, ma anche pieno di sensi riposti baudelariani, in cui andare a ricercare un intreccio che poi si snodava appunto con una serie di colpi di scena a rotazione, bandito qualsiasi, per fortuna, qualsiasi psicologismo. Ogni cosa era puro intreccio, pura ricerca, alla ricerca appunto di una dilatazione cinematografica infinita in cui si mescolavano le atmosfere, per esempio, di Landolfi, apparizioni fantasmatiche alla Harry James, ma anche Mario Bava, c'era moltissimo il decor, le scenografie barocche, il frusciare delle sete e queste voci stentore di gente strappata agli assiti del palcoscenico, no? Queste voci teatrali. Comunque erano veri attori, non erano attori di razza, improvvisati, sì, come oggi, veri attori che si impegnavano in un genere nuovo. Era puro pionierismo, perlomeno per la nostra drammaturgia nostrana, muoversi in questo ambito. Era l'Ottocento che cortocircuitava fantasmatico con il tubo catodico, irrompendo nelle case. Poi spesso si andava, i miei genitori per esempio andavano a casa di altri, si convergeva in casa di altri per il rito appunto dello sceneggiato. Ma io ho detto Carla Gravina, ma le ricerche erano una raffinatezza, c'era un retropensiero così articolato. Era un personaggio da Dante Gabriele Rossetti, era, sì, bellissima, era. Poi io me la immaginavo tale perché sapevo che era rossa di pelo, ma allora si vedeva semplicemente questa figura aleggiare. Eravamo ragazzini, ma ne eravamo affascinati. Sì, la nostalgia è una bellezza lancinante, esattamente, lascia una pura nostalgia in Pagliai che la ricercherà per tutte le estenuanti, lunghissime puntate dello sceneggiato. 800240024. Eravamo noi che eravamo più buoni, o era più buona la televisione e faceva di noi un popolo di buoni? Mauro, buongiorno. Ecco, Mauro è caduto, è talmente buono che è caduto. Andiamo avanti. Benvenuto, professore. L'aspettavamo. Qualcuno vuole parlare con lei. Il quadro che sto cercando, dov'è? Questa è una seduta spiritica, quindi vedete che anche l'aspetto paranormale, anche l'alternativa solfurea alla religione ufficiale veniva toccata, lambita, approfondita con coraggio. Quelli erano tempi in cui la televisione era solidamente in mano a veri, concreti, praticanti cattolici. Era la televisione in cui non si scherzava, la mattina i dirigenti andavano a messa e poi andavano a lavorare, erano realmente integerimi. Oggi la televisione è in mano, una sorta di sepolcri imbiancati, hanno anche paura soltanto di accennare qualcosa che non passi attraverso a mille vidimazioni oltre Tevere. Era la televisione pedagogica di Bernabei, che cercava appunto attraverso questi lessici forbiti, ma sinceramente intrisa di un senso etico. Sì, sì, con umori forti, qui appunto c'è questa alla Wells, questi cagliostri capitolini in queste vestaglie damascate che organizzano questa seduta spiritica, con appunto inquadrature di grande rilievo, di grande forza, e Pagliai appunto cercherà nel corso di questa estenuante ricerca di capire, di intrecciare le vicende di alchimisti, di negromanti. Pensa come è diversa dalla televisione di oggi, in cui l'aspetto di redenzione, il politico che va dal padre confessore Fazio ad ammettere, sputtanando naturalmente la sua compagna di sventatezza extraconiugale ad ammettere di aver fatto una digressione al suo matrimonio. Sì, Bocchino va da Fazio e dice: chiedo scusa a mia moglie. Questo è l'aspetto più sepolcrale dell'etica televisiva oggi. Allora, ma nulla a che vedere con l'intensità sulfurea appunto di queste figure che caricavano un po' come i telefoni bianchi. C'era questa passionalità, questo pathos sfrenato, slanciato, che veniva certo da un cotè teatrale, però inquadrato con inquadrature alla Lang, appunto alla Wells, barocche, piene di intensità, di forza, che evocavano il sogno. Ecco, abbiamo recuperato qualche ascoltatore. Una cosa devo dire: riguardandoli oggi si trovano estremamente lenti. Ormai il nostro tempo di fruizione di un prodotto televisivo è abituato alle 14 inquadrature contemporanee, ai 25 cambi di campo Ma anche quella lentezza era ipnotica, era funzionale, cioè ti dilatava, tu penetravi e ti addormentavi in questa sfera onirica. Fra questi velluti tu affondavi e davanti alle trance di Carla Gravina entravi anche tu stesso. Aveva anche in una trance. Funzione di contenzione della lussuria, era il bromuro catodico che veniva instillato nelle famiglie italiane e poi andassero a letto tranquilli. Però quanto erotismo sospeso c'è in Carla Gravina qui, insomma. E infatti si facevano più figli. Mauro, buongiorno. Buongiorno, ma io sì, lo riconosco, sono passatista, sono nato nei primi anni 60, quindi ho vissuto quella che voi avete chiamato liturgia lisergica nazional popolare. Io ero intossicato. Ma mica lo diciamo con disprezzo, diciamo con noi siamo ammiriamo le reliquie del passato che emergono e ci danno insegnamenti sul presente. Sì, no, ma io mi compiaccio di essere passatista, cioè ne vado fiero, ecco. No, anche perché oggi l'idea del futurista, diciamo che non ha proprio nulla di avanguardistico. Abbiamo appena citato qualcosa poco fa che aveva a che fare con questo. Prego. Ma comunque io ero intossicato dal linoleum lisergico dei pavimenti dei bagni, dalle tappezzerie damascate. Ecco, lei ha detto una cosa molto interessante: ricostruiamo la sinestesia della fruizione dello sceneggiato. Allora, i divanetti erano di ciniglia, era questo vellutino che si impregnava di puzza di pelo di gatto, che già in sé dava un effetto, o sbaglio? Sì, i salotti poi erano ovviamente pieni con mobili, erano pieni di mobili. E che incaglierie di tutti i tipi. Bomboniere, ritrattini. Sì, bomboniere, tappezzerie che facevano un po' l'effetto dell'LSD, avevano queste damascate, queste cose. Le nuance erano tutte sul marrone, sul terra di siena bruciato, sul beige, sul verdone scuro, dava molto il sottobosco, non so perché. Sì, le vie ad esempio erano porpora. Anche sì, beh certo, il porpora era la morte sua col marrone. Sì, poi c'erano questi televisori col generatore che avevano questo bianco e nero tendente al violaceo, bulloaccio. Quando si scaldava c'è quel bello odorino di circuito vicino al cortocircuito che già in sé dava una sensazione. Esatto, e poi questi effetti... Bachelite bruciata, ecco, una cosa del genere. Sì, poi questi effetti lisergici erano amplificati e si mescolavano poi con le immagini, con il clacchete clacchete di Nero Wolf che passeggiava dalla serra al salotto, dalle scarpe di Nero Wolf. Tino Buazzelli. Come? Tino Buazzelli. Tino Buazzelli, Wells italiano, se vuoi. Insomma. Esatto, sì, Tino Buazzelli, oppure il bambino con la voce rantolante posseduto di ritratto dello sceneggiato ritratto di Donna Velata. E appunto c'è questa immagine degli anni 60, poi c'è l'immagine di oggi, e l'immagine di oggi in cui ovviamente ci sono questi sceneggiati con queste pause devastanti, no? Veramente che sono degli abissali. Ecco, l'interruzione pubblicitaria, è vero, spezzava il climax, e questo è chiaro. Queste voci, come dicevate voi, appunto, stentore di queste... Un ultimo sforzino, mi ricordo dunque i tendaggi spessi che non lasciano filtrare nulla della luce esterna, naturalmente le tapparelle erano sempre abbassate, i pavimenti erano terribili, o linoleum, come diceva lei, o nei salotti più lussuosi c'era quella sorta di tombale marmo lucidissimo che bisognava camminare con le pattine. Sì, esatto. Quindi era al freddo, i piedi erano al freddo, diciamo la verità. Il sedere era al limite del rischio emorroidale per questa sorta di sintetica ciniglia in cui eravamo seduti. Poi c'era la lucina verde, l'odore di bachelite bruciata. Quindi eravamo in una sorta di ambiente lesergico immersivo totale. Poi c'era anche questo effetto flu dato dal primo video, no? Che creava questo flu lattiginoso, che era una sorta di nostalgia della nostalgia, in cui passato e presente bergsonianamente già convivevano. Insomma, c'era già una nostalgia regia anche di quello che vedevi in diretta. Allora, stiamo facendo un passo avanti. Eravamo buoni perché eravamo drogati. Era una fantastica, meravigliosa droga familiare che ci veniva somministrata dalla buona televisione. Aldo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sentiamo lei. Eravamo buoni, io veramente ero terrorizzato. Però parli delle sostanze che anche lei si faceva in quel periodo davanti alla televisione, l'abbiamo elencate parecchie. Sì, però io purtroppo ricordo più della TV prima di Carosello, non so perché, per il dopo... Beh, evidentemente era roba più potente. La descriva però nella sinestesia, cioè nella totalità delle sensazioni sensoriali, come ha detto il suo collega. Beh, la realtà era... una televisione molto educata, molto famiglia, insomma, mi ricordo, cioè, su dei luoghi ben precisi dove noi vedevamo la TV dei ragazzi, e poi io avevo questo terrore di Padre Mariano, mi dispiace, poi negli anni ho recuperato, ma a casa mia la TV andava spenta. Oddio, non era uno sceneggiato, quello era un vero prete che faceva pace bene, un vero prete, un frate francescano. Frate francescano, e più dello sceneggiato poi ricordo invece... dell'Ordine dei Favaroni, erano quelli lì proprio con la coda... che la mamma ci faceva andare nell'altra stanza perché il vecchietto vicino di casa veniva a vedere... Vabbè, sta andando fuori tema, rischio che posso doverla segare. Sentiamo Lorenzo è più sul tema. Buona giornata Nicoletti. Lei ci sta andando vicino, allora cosa si ricorda, anche se non era una produzione italiana? Sì, era Belfagor, il fantasma del Louvre. Una produzione francese, però noi pensavamo era una cosa favolosa. Quando ero piccolo c'erano questi saloni scuri, tetri, con questo personaggio che doveva essere l'impersonificazione di una mummia ricoperta da un velo nero. Quindi era tutto così. Che poi alla fine non si vedeva nulla, non c'era un effetto splatter con volto putrefatto. Però era così tutto misterioso e pauroso. Che era magico, diciamo che per noi ragazzini era qualcosa di magico. Oltre a essere nero e misterioso come i televisori, perché una volta i televisori erano solo tutti color legno, sì, o legno. Poi era un atto, diciamo, un atto di fede riuscire a vedere dall'inizio alla fine un programma. C'era sempre un umarel, nonno, zio o parente che doveva manovrare l'antenna e cercare delle alchimie fra posizionamento dell'antenna, del cavo e del televisore. C'era un grosso vantaggio. Che non c'era il telecomando, quindi in ogni modo dovessi alzare per andare a cambiare qualche cosa era già un problema. In certe famiglie funzionava con l'imposizione delle mani, se uno teneva le mani appoggiate sul televisore funzionava, come si allontanava si staccava. Sansonna, scusi Lorenzo, grazie Lorenzo. Belfagor anticipava un po' il segno del comando, queste atmosfere, di questa sorta di mistero insoluto in cui si intrecciavano fantapolitica, i Rosa Croci, i Templari, nel caso del segno del comando, poi si intreccerà vicende alchemiche, a negromanti, a reincarnazione, si intrecceranno vicende politiche, carteggi misteriosi fra britannici e nazisti. Questa passione tutta italica del mistero sospeso e insoluto che poi ha trasferito anche alla vita politica, no? Anche agli eventi poi realmente tragici della nazione, poi è rimasta, diciamo, questa voluttà di non scoprire mai il mistero, di rinviarlo eternamente. Biagio Proietti, buongiorno. Buongiorno. Allora, Biagio Proietti, lo introduco brevemente, è uno dei personaggi chiave di queste atmosfere che stiamo noi cercando di evocare. Innanzitutto in televisione ha sceneggiato alcuni episodi della serie Dov'è Anna, di cui poi sentiremo alcuni stralci, che già fa parte di questo filone qua, ma lui nasce proprio da alcune produzioni di cinema più estremo, cinema horror, o sbaglio Proietti? Dove Anna non ho sceneggiato alcun episodio, ho sceneggiato tutto, ho inventato insieme con Diana Crispo il soggetto quindi era personaggio allora, chiave. Le cose per esempio che erano diverse, sembra un'annotazione marginale oppure vanitosa, quando andavano in onda questi programmi, ecco, i titoli erano Dove Anna di Biagio Proietti e Diana Crispo, cioè gli autori erano messi nel primo cappello. Adesso andare a trovare gli autori a volte ci vuole altro che la lampada di Dionigi. Allora guardi, faccia correggere la voce su Wikipedia, che è imperfetta in questo momento, da cui Wikipedia purtroppo è a volte utile ma è piena di errori. Sì, infatti, allora la correggeremo. Lei, diciamo, è il personaggio, è la mente di Dove Anna, di cui sentiamo subito un primo assaggio, così cominciamo a far capire di cosa si tratta. L'esistenza quasi monotona di una giovane coppia, Carlo e Anna Ortese, sposati da 3 anni, senza figli, viene improvvisamente interrotta. Un pomeriggio del 5 dicembre Anna scompare. Il commissario di polizia Bramante, dopo 3 mesi di inutili ricerche, comunica a Carlo che le indagini sulla scomparsa della moglie devono essere formalmente abbandonate. Carlo non si rassegna, perché ama sua moglie e perché il cercarla lo porta a scoprire una vita segreta di lei. Carlo si rende conto che il rischio è di scoprire alla fine una donna diversa da quella amata, ma è un rischio che deve correre per Anna e per se stesso. Abbiamo fatto sentire quello che era probabilmente il riassunto di ogni puntata. Ricordo Dove Anna è uno sceneggiato televisivo prodotto nel 76, iniziato ad andare non nel 76, tende incollata la TV, leggo oltre 14 milioni di spettatori a puntata. Fu una cosa senza precedenti. Voglio sembrare quello che corregge sempre, dai 14 ai 16 su un'altra, e in più con un record che praticamente è resistito fino a pochi anni fa. Parlo sempre di non senza l'avvento delle televisioni private. L'ultima puntata ebbe 26-28 milioni di pubblico, che fu battuto solo da una partita, non la mitica Italia-Germania, nemmeno un'altra. Allora Proietti, si prepari a rispondere tra un istante, dopo che manderemo le informazioni della borsa, a questa mia domanda. Qual era il pensiero quando eravate davanti a un tavolo in due o tre persone, dire dobbiamo fare qualcosa che piaccia al pubblico, e voi cercavate questo filone che correva sempre sul giallo, sul thrilling, sul mistero? Sembrava totalmente antitetico a una visione televisiva come oggi viene ricordata, educativa, noiosa, parrocchiale. Era qualcosa di totalmente trasgressivo rispetto a quell'idea, e funzionava. 800240024. A tra un istante ci risponderà Biagio Proietti. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. L'incidente gli è capitato nel periodo della disgrazia. Sì, poi io ti ho fatto da moglie. Per me è morto. Io non me la so immaginare, una di quel genere che scappa con un altro uomo. Era simpatica, sa, una di quelle donne pulite. Quando parla tu le stai ascoltando, insomma. Le trovi pure belle, piacevoli, però non ti danno la voglia di fargli le proposte, ecco. Sono loro che non te le fanno fare. Eppure a me le donne mi piacciono tutte. Mi piace pure mia moglie. Mi chiamo lo strafogato. Riprendiamo con lo sceneggiato Dove Anna, in cui ci eravamo interrotti per le informazioni dalla borsa. 80024, stiamo cercando di ritrovare i punti forti, ma secondo un'accezione sensoriale vastissima, quando guardavamo questi sceneggiati televisivi, e cosa pensavamo, dove eravamo seduti, qual è l'aria che respiravamo. I punti forti, come dicevo, che determinano un rapporto virtuoso fra umanità che ci ricordiamo buonissima e televisione che in realtà ci istigava ad essere buoni, perché era anche un po' cattiva. Giuseppe Sanzon. Un altro tassello della sinestesia che evocavi prima è fondamentale, è quello del mobile bar, per esempio, perché in questi sceneggiati si beveva e si fumava come assassini a qualsiasi ora del giorno. Col vecchio Romagna etichetta nera, mille fiori cucchi, quello lì con la piantina dentro. G&B, Ballantines a fiumi preso alle 11 di mattina, vuoi un whisky, vuoi una sigaretta? Un whisky. Sì, perché tutti i film in realtà, quelli con Tognazzi, Alberto Sordi, dicendo, c'era sempre questa bottiglia del G&B in piena, le sigarette si vedevano e il G&B sempre, ovunque andavano. C'era una furbata per abbronzare un po' di denaro. Qui invece era proprio un fatto antropologico, perché veniva il mobile bar era una sorta di altare, di rituale perenne. In Dove Anna sì, perché eravamo un po' americanizzati dal piano Marshall in poi. Noi eravamo convinti che se per far parte totalmente di quel modello bisognasse avere sempre il bicchiere di whisky in mano. E comunque ci calava nella giusta percezione di questa dilatazione di una sorta di chi l'ha visto, che Dove Anna, di Dove Anna, perché noi abbiamo il telefono, poi abbiamo Biagio Proietti che insomma ne è l'autore, e si racconta di questa donna che sembra all'apparenza totalmente normale, però in realtà ha questo lato oscuro molto misterioso anche per lo stesso marito, per lo stesso convivente, che comincia a scoprire il lato nascosto proprio quando lei scompare misteriosamente. La inseguirà per tutta una serie di puntate che abbiamo sentito essere seguitissime. Ma quello che emerge, come dicevi tu prima, è una borghesia livida dal canino affilato, una serie di colletti bianchi di grande feroce. Prima si parlava dell'eventuale pedagogia di Bernabei, però qui emerge un tessuto antropologico veramente feroce e lì raccontato con anche un certo verismo, senza indulgere appunto in pietismi. È l'antica e millenaria tecnica del mostrare le vanitas, le fiamme dell'inferno, per educare a una rettitudine. Mentre oggi la televisione è melliflua, mostra solo gli aspetti mielosi della realtà o gli aspetti talmente cruenti da essere altri rispetto al quotidiano. Poliziotti bonari, costantemente bonari. Allora c'era una giusta lettura. Biagio Proietti, autore e sceneggiatore che ha seguito appunto Dove Anna, che è lo sceneggiato di cui stiamo parlando, c'era questa consapevolezza di dare dei segnali su alcuni aspetti non proprio rassicuranti della realtà per dare anche una sorta di ammaestramento, di insegnamento, semplicemente eravate talmente bravi che riuscivate a passare attraverso le maglie strette dell'osservanza di quei tempi e facciate vedere di tutto? Ma eravamo anche bravi a passare, però in realtà il successo di Anna fu proprio il rovesciamento delle cose che avevano successo allora, cioè, mi spiego, allora avevano veramente un grande seguito i gialli, i famosi gialli di Darbridge, che erano poi sceneggiati, due li ho fatti io, cioè erano sceneggiati da autori italiani, realizzati in modo diverso da quelli originali inglesi. Con questo, in realtà, la proposta di Dove Anna era quella di rendere protagonista personaggi comuni, scusatemi la parola, cioè esseri della vita, e cioè chiunque stava a vedere il programma poteva anche identificarsi nei personaggi che vedeva, ma soprattutto di portare avanti dei temi che di solito in quegli anni in televisione venivano trattati solo da, ma neanche dai telegiornali, ma dalle varie rubriche specializzate del giornalismo, il famoso mitico TV7 e altre cose di questo tipo. Ma io infatti sono sempre stato di questa idea, che in quel periodo la televisione, al di là della apparente e scolastica divisione in generi, era molto più intraprendente, molto più trasgressiva di quella di oggi. In realtà venivano sconfitte queste maglie. Noi abbiamo visto molte volte quanto i ritratti più calzanti della società dobbiamo andarli a vedere nei programmi televisivi, magari di intrattenimento, di spettacolo. E lei mi conferma che nello sceneggiato televisivo c'è in realtà una presa diretta sulla realtà che non facevano nemmeno i telegiornali, che erano spaventatissimi allora. No, i telegiornali no, tutto più erano riservati ai programmi giornalistici che andavano in onda alle 10:30 di sera. Ecco, per esempio il tema della sanità mentale, il tema dell'adozione, se ci vuole raccontare di come l'avete affrontato e inserito nella sceneggiatura? Questa è l'idea mia e di Diana Crispo, era quella proprio di fare finalmente un giallo non solo ambientato in Italia, perché allora ci costringevano ad ambientarli in Inghilterra, in Germania. Io ho fatto Coralba, che era ambientato in Italia, nel 70 l'abbiamo dovuto ambientare in Germania, ma non solo ambientarla in Italia e poi usare il linguaggio, ma portare un linguaggio estremamente realistico dentro, sia come tema sia anche come linguaggio. Ad esempio, nella prima puntata il brano che avete messo voi adesso, che vi ringrazio di aver messo quello, perché io ritengo che quello sia proprio la chiave del successo di Dove Anna e la rivoluzione, se vogliamo, se mi permettete questa parola. No, figliamo. Ci dica perché magari, ecco, per lei è particolarmente importante. Sì, perché per esempio lo sceneggiato cominciava non con la scomparsa, cominciava con lui che dopo 6 mesi la polizia diceva non la possiamo, cioè, praticamente non la cerchiamo più, e lui decideva di cominciare a cercarla, ma a modo suo. E tutta la scomparsa di Dove Anna era fatta in 25 minuti, 20 minuti, attraverso un linguaggio giornalistico. Cioè, questo signore che era il proprietario di una drogheria era intervistato come allora intervistavano, come ancora adesso intervistano le persone per strada, chiedendo ma che fine ha fatto, perché è successo, chi era la vittima o chi era l'assassino. Ecco, con un linguaggio molto rapido. Allora la caratteristica piuttosto purtroppo negativa di molti sceneggiati era la lentezza. Ecco, qui Dove Anna, per esempio, usò un linguaggio anche modulato dal giornalismo, proprio attraverso interventi, cioè non si vedeva il poliziotto che faceva le domande, e c'era semplicemente, subito la risposta. Ecco, le aveva fatto una domanda a Sansonna che io trovo molto pertinente. Sì. Venne toccato e lambito un argomento molto tabù, quello, diciamo, dei problemi psichici, psichiatrici. Io ricordo che la legge Basaglia del 78, la 180, in cui si cominciò a parlare di disagio mentale come qualcosa che poteva essere affrontato alla società intera, non relegato in dei luoghi che andavano nascosti. Lei già anticipò di un paio d'anni questa problematica, cominciando a parlare di un argomento di cui non si doveva parlare. Le persone erano sane di mente o i malati di mente andavano rinchiusi. Ma le dico di più, a parte che io conoscevo bene questi problemi, che stavo lavorando con l'equipe di Basaglia per cercare di fare un programma giornalistico. Lei pensa, io l'ho detto per puro intuito, in realtà era un problema che era molto nell'area in quei tempi, io mi ricordo. Ma quella norma, adesso molti ci guardano dicendo ma è possibile che ci fosse una cosa così orrenda, esisteva, cioè in realtà il successo di Doganna contribuì ad abolirla prima della legge Pasquale. La norma che se un malato di mente, anche riconosciuto sano, scusate faccio per comodità, non poteva uscire se non c'era qualcuno che firmava la garanzia. Cioè come un oggetto da sdoganare, ecco, voglio dire. E c'era, e fu tolta proprio perché si sollevarono una serie di problemi, proprio perché la tirammo fuori noi, e da lì il linguaggio, da lì si creò un po' anche diciamo il l'us adatto per l'applicazione della legge. Quindi vede, abbiamo trovato anche un altro punto, in realtà sì. C'era anche un forte portato civile in questi sceneggiati, che a volte era subliminale. Noi l'abbiamo scoperto adesso per puro caso, è venuto in mente la legge Basaglia, e la tale mi conferma che c'era un nesso reale, concreto, non era semplicemente un accostamento temporale. E questo era un passaggio pericoloso, perché lei passava attraverso una TV ufficiale, che prima che si dimentasse, facesse suo o elaborasse questo principio, passarono veramente moltissimi anni. Sì, perché poi se ne accorsero. Questo voglio dire, cioè in realtà ci si rese conto che attraverso il successo di il linguaggio e il successo di alcuni programmi si potevano inserire delle tematiche che forse interessava tenere un po' più nascoste. Ci fermiamo solo un istante, Proietti, ridiamo le informazioni del traffico, poi riprendiamo fra un minuto. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Ecco, la cerimonia si svolgerà qui. Il ministro per mettere in azione il radiotelescopio. Guardi quanto è bello. Schiaccerà un bottone al banco di controllo. Potete ricevere dei ponti che gli altri osservatori non riescono a captare? Lo spero, ma non mi chieda come. C'è un gruppo che se ne è occupato. Il dottor Fleming e il dottor Bridger. Bridger? Sì, ma il cervello è Fleming. John! Salve. E se hai un momento, John, il dottor John Fleming, la signorina Adamson, Judy Adamson. Augusto, buongiorno. No. Di cosa stiamo parlando? Io volevo raccontarvi una piccola esperienza. Qualche anno fa mi trovavo al mare. Ma ha sentito quello che andavamo in onda adesso? Sì, certo. A Rimini, tre giorni di pioggia, bloccati in camera d'albergo, abbiamo trovato una pulciosa televisione locale che dava A come Andromeda. Questo sceneggiato che io ricordavo da ragazzino, di aver visto con Vannucchi se non sbaglio, e abbiamo tentato con la mia fidanzata un tuffo nel passato guardandoci un po' di puntate di questo sceneggiato mitico, bianco e nero, fantascientifico. E che impressione vi ha fatto? Non succedeva niente. Cioè era incredibile la lentezza, cioè non voglio dire la pochezza perché non ne voglio dare un giudizio negativo, ma era incredibile il ritmo, cioè non succedeva niente, non ho neanche ben capito perché la memoria mi tradiva, non ho neanche ben capito come fosse la storia. C'era gente che si aggirava in questi laboratori con questi pomelloni, computer, con manovelle grosse come cambio Non automobile. Esisteva ancora l'idea dei LED, della digitalizzazione, certo. La tecnologia era molto analogica e molto tecnica, però non succedeva niente. Non è che non succede. È chiaro, sa perché? Sì. Perché è cambiata la qualità del nostro tempo. Il tempo cambia la sua qualità, certo, non si misura soltanto in quantità il tempo, anche in qualità. La qualità del tempo allora era così, era un mondo più lento, oggi è un mondo più veloce. Faceva impressione perché c'erano questi che si dicevano tipo Jim è un messaggio da Orione, no, questo è Andromeda, e poi un quarto d'ora di nulla, sempre in interno. E poi un'altra nota a margine era svolgendosi, io credo, immagino nel futuro, questo sceneggiato, il futuro veniva rappresentato dall'utilizzo di maglioncini dolce vita a collo alto. Si andava molto, in quel tempo noi si pensava che il dolce vita a collo alto sarebbe stato l'abito del futuro. Sarebbe stato sì, che era probabilmente ocra o beige, in televisione appariva bianco sporco, e dava un po' doveva dare il senso Il tortora andava molto, ce l'ho detto, tutte le gambe del del Tortora andavano molto. Il moltissimo. Legame del Tortora, sì, che faceva, tra l'altro metteva in risalto anche tettine e pancette maschili, era molto interessante. Sì, qua. Che poi era il classico color cacarella, detto sì, proprio volgarmente. Giuseppe Sanzon. Oh, cioè il siciliano Vannucchi che doveva fare lo compianto, dato grande attore di teatro, che recitava come se fosse in pieno giardino dei ciliegi cecoviano ed era invece fra questi manopoloni, fra queste addio di in cartongesso che a un certo punto luddisticamente prende a colpi di accetta, ma era come se Philip Dick e Tarkovsky in un appunto in un orgia lisergica fossero precipitati in questa dilatazione temporale. E siamo sempre al discorso dell'ipnosi, c'era un'attesa continua, c'era qualcosa anche di Blade Runner, perché in realtà da Andromeda, da 2 milioni di anni luce, arrivava questa sorta di segnale che programmava la costruzione di questo androide che doveva essere Patty Pravo, poi Patty Pravo si rifiutò, forse estenuata dalla prospettiva di rimanere incastrata in questo laboratorio. Beh, però è stata una profezia, oggi è un androide. Oggi è un androide, o forse percepiva appunto il rispecchiamento già di una mesta profezia, invece lo fece la compianta Nicoletta Rizzi, che aveva questa cotonatura che perforò l'ozono probabilmente, perché ed era un androide con sentimenti umani, questo ecco, tema. Allora la televisione di taglio deprecabile e democristiano anticipò anche il cyberpunk, anche quello che diventò poi una tendenza cyberfighetta era già in quella televisione. Alberto, sentiamo Alberto, poi ripassiamo a Proietti. Alberto. Nicoletti, buongiorno. Sembra che sta chiamando d'Andromeda anche lei. No, io volevo riallacciarmi al discorso di Dov'è Anna. Sì. Perché io ho molto, molto chiaro in mente questa sigla iniziale in cui questi quattro personaggi risoluti camminavano sotto il tunnel alla ricerca di questa Anna. Con Scilla Gabel, che per me era una... Ha un auricolare lei, Alberto? No, sono col Bluetooth. Allora, infatti, guarda, leva questa burinata orrenda di questi auricolari col Bluetooth che vi fanno sembrare tutti degli automi. Parla dentro il telefonino, se no non ti sentiamo nulla, sembra veramente. È una sicurezza per guidare. Ah, ma stai guidando? Sì. E allora decido, ti schianti o ti fermi? Perché sennò non capiamo niente. Adesso sono fermo. Ecco, fermo, ecco, leva il Bluetooth, sennò non sentiamo. Sembra una voce che viene dallo spazio. Ah, ecco, adesso sì. Mi sente, no? Ma c'è sempre questa... Andromeda che incombe. Sì. Ecco, adesso? Andromeda che incombe. Oh, adesso è perfetto, allora, vai. Velocemente volevo dire anche un altro sceneggiato di quel periodo, con Giulio Brogi, che era Gamma, che c'era questa immagine di Giulio Brogi tutto bendato che mi ha segnato per 35 anni e oltre. Niente. Però vedi, rimaneva impressa. Allora, riprendiamo con Biagio Proietti, che ha sentito queste impressioni anche su altri sceneggiati, non soltanto i suoi, ma... anche su Dove Anna vedo che rimane una pietra miliare. Il senso della lentezza. È vero che oggi è cambiata la maniera di narrare attraverso immagini, ma è cambiata anche la vita. E quindi rivederli oggi sembrano un po' lenti, ma in realtà per i tempi erano secondo i canoni di riprese di regia proprio di quell'epoca. Sì, anche perché ricordiamoci che la lentezza era un po' determinata dal fatto tecnico. Questo prevalentemente erano programmi realizzati in studio con le vecchie telecamere, quelle pesanti. Per muoverla ci volevano tre persone. Con il montaggio, non voglio entrare in cose tecnologiche, ma insomma con un montaggio a due pollici che non si poteva tagliare il nastro, quindi non c'erano le cose di adesso che si fanno. Sì, era diciamo un nastro... per far capire tipo un rotolo di carta igienica come altezza. Sì, era alto 2 centimetri. Quindi e che era difficile da attaccare, insomma, era più difficile della pellicola, insomma, quindi allora si facevano scene e poi man mano il montaggio consisteva nel corporare le varie scene, ecco, quindi all'interno c'era questi piani sequenze infiniti, insomma, era un po' questo, però anche lì c'è da distinguere fra sceneggiati e sceneggiati, perché poi anche nel 76 qualche cosa si faceva di diverso, cominciavano a venire le camminette piccole, per cui si facevano, una volta c'erano addirittura che gli... Mi ricordo, avete fatto il segno del comando del mio grande amico e maestro Daniele Danza, che non c'entra con Dove Anna, ma tutti gli altri miei sceneggiati sono stati realizzati da lui. Gli esterni venivano girati con tecnica cinematografica e poi invece gli interni con tecnica. Erano girati in 16 mm gli esterni, in pellicola, no? Sì, 16 mm con pellicola. e la differenza la vedi, la vedi, non c'è niente da era fare. Puro cinema, era anche sperimentazione, c'era anche dell'avanguardia in fondo. Sì, c'era sì, in effetti c'era un effetto proprio stranissimo, che cambiava completamente proprio la luce, era diverso. Dall'attiginoso dell'interno, dal flu dell'interno, si passava alla definizione della pellicola in esterno, con questo fascino, questa potenza cinematografica. Una cosa invece di... c'è una scena bellissima in cui c'è Mariano Rigillo che legge Il Monaco di Lewis, romanzo artodiano, con dietro stampe di Braque, no? Lui faceva il libraio porta a porta, quindi c'erano delle schegge di alta cultura immesse così in questa cosa che vedevano milioni di italiani. Questi dettagli come li congegnavate? Ma posso dire con a distanza di anni che erano delle furbizie per passare dei messaggi. Ah, ecco, invece un'altra cosa fondamentale: voi foste censurati in un episodio che riguardava una sua immersione nella Roma notturna fra le prostitute, è vero? Allora, in le puntate previste erano 8 e le scrivemmo tutte 8. Poi al momento della realizzazione stavate prima descrivendo bene il clima di quella televisione, non ci fu detto che quello non poteva essere fatto perché riguardava la prostituzione. Però guarda caso, fu l'unica cosa. Ma perché costava molto, essendo girato tutto di notte, quasi tutto in esterni, costava molto. A quei tempi non si svendeva, non è come oggi, che se ne prendono 10 al prezzo di una. Allora fu tolto, ecco, insomma, però... Però in realtà, per esempio, ecco, se pensiamo che queste erano anche delle battaglie per il divorzio, non mi ricordo se ci stavamo ancora dentro o se ne eravamo appena usciti, ma mi pare che ci stavamo ancora dentro. Portare al protagonista una famiglia, una coppia, e la ricerca di lui non è tanto la ricerca della moglie fisica, cioè voglio dire di ritrovare che fine ha fatto, ma la ricerca di chi era la donna con cui viveva accanto. Ecco, quello è stato anche un altro grande... Poietti, noi ci dobbiamo fermare per questa puntata, ma vedo che l'argomento è molto vivacemente trattato dagli ascoltatori, quindi presto ci ritorneremo. La ringrazio intanto per aver partecipato oggi. Grazie a Giuseppe Sanzonna, grazie a Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. A domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.